Quando tu lasse un clac clac, si quando un amato se per tash tash, cosa fai anche i tom, quando in son mo che le mangiash jash.